Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Dunque, dopo il ministro Saccomanni, adesso tocca al ministro Zanonato, nel senso che al di là della polemica sul canone Rai, ne ha parlato oggi il consigliere Rai Luisa Todini da Giovanni Minoli, Mix 24, qui a Radio 24, e affronteremo il tema, ma attenzione, c'è un tiro abbastanza incrociato su Zanonato per quello che riguarda la vicenda Electrolux, e mi riferisco allo stabilimento di Porcia Pordenone, ma non solo, anche quello Veneto, perché sia la governatrice della regione Friuli Venezia Giulia, mi riferisco a Deborah Serracchiani, che il governatore del Veneto Luca Zaia hanno dato, sostanzialmente hanno chiesto le dimissioni di Zanonato, perché a lanciare, diciamo, il sasso nello stagno è stata la Serracchiani. Zaia poco fa ha aggiunto: mi sento di sostenere la richiesta della mia collega Serracchiani, per cui diciamo, anche se vengono da una parte politica diversa. Qual è il motivo? Beh, secondo la Serracchiani, il ministro Zanonato nella gestione della crisi Electrolux ha dimostrato di non avere l'equilibrio necessario per ricoprire il suo delicato incarico. Dovrebbe dimettersi, dice sostanzialmente la Serracchiani, che avrebbe sottovalutato o dato per scontato che lo stabilimento friulano, quello di Porcia in provincia di Pordenone, non fosse più competitivo, dando una sua preferenza allo stabilimento di Susegana a Treviso. In realtà la Serracchiani contesta il metodo oltre che il merito, non ha mai convocato le parti, dice la Serracchiani, avrebbe il 26 novembre in mia presenza ha assicurato che avrebbe visitato gli stabilimenti e ancora aspettano la visita. Insomma, è un fuoco incrociato. Per quello che riguarda invece gli altri temi di questa puntata, beh, ci occuperemo anche dei consumi barra protesti, perché sebbene i dati non siano ancora, anzi siano ancora deludenti, qualche segnale, lo dice lo stesso presidente dei commercianti, la Confcommercio, Sangalli, qualche segnale che si è toccato il fondo, che c'è una certa risalita, sta arrivando, molto cauto, molto prudente e ancora non sufficiente. Parleremo anche del bilancio del Comune di Napoli, bilancio forse è quasi troppo, nel senso che è un vero e proprio incubo o rischio di dissesto finanziario. La sezione regionale della Corte dei Conti ha infatti bocciato il piano di risanamento del Comune per riportare i conti in equilibrio entro 10 anni. Decisione analoga ha riguardato anche il piano di risanamento di Reggio Calabria, rigettato dalla Corte dei Conti calabrese. La Corte dei Conti campana nutrirebbe in particolare dubbi sul piano di dismissioni immobiliari da 800 milioni e sul drastico miglioramento della riscossione dei tributi previsti nel piano della Giunta De Magistris, che contempla anche un aumento delle addizionali IRPEF e IMU. Con la messa a punto del piano Napoli aveva ricevuto circa 160 milioni di euro di anticipazioni statali, ma vanno poi restituite. Forse anche il numero di dipendenti nel Comune di Napoli non aiuta, sono 10.000 dipendenti con un costo del personale di 423 milioni di euro. A questo si aggiungono altri 8.500 dipendenti delle 14-15 aziende pubbliche partecipate, sono altri 351 milioni di spesa. Ora, con 10.000 dipendenti, volete sapere quante sono le multe che il Comune di Napoli riesce effettivamente a riscuotere? Faccio notare che non so, in Lombardia, Milano, sei a tassi di riscossione, ahimè, ne so qualcosa, del 92-93%, il 3%. Allora, o sono troppi dipendenti perché sono incapaci, o c'è qualcosa che non funziona, perché insomma riscuotere il 3% delle multe emesse vuol dire che a Napoli sostanzialmente nessuno paga le multe, io così capisco, e i soldi non entrano nelle casse del comune. E ne parleremo anche perché questa mattina è intervenuto a effetto giorno il sindaco di Napoli Luigi De Magistris proprio sull'operato della giunta, che chiaramente ha, ha difeso. 349-238-6666 per i vostri sms, oltre che di Napoli e anche della vicenda Electrolux e della richiesta di dimissioni del ministro Zanonato. Parleremo anche di quanto ha scoperto oggi il Sole 24 Ore, che la cassa integrazione è al capolinea in ben 11 regioni italiane che sono rimaste senza fondi per la cassa integrazione in deroga, chiaramente quella data in deroga appunto a soggetti che altrimenti non ne avrebbero diritto. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto. Il Veneto per ora ha bloccato solo però le autorizzazioni per la mobilità. Il coordinatore degli assessori regionali Gianfranco Simoncini dice che mancherebbero all'appello solo per il 2013 un miliardo di euro a fronte di 2,5 miliardi già stanziati. Anche di questo parleremo, dicevo, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Scrive un ascoltatore: ma un comune mica si gestisce con le multe. No, un comune non si gestisce con le multe, ma vedere che hai 10.000 dipendenti e riesci a riscuotere il 3% solo delle multe come incasso ti la dice lunga sull'efficienza di quel comune, a mio avviso. Seconda obiezione che spesso arriva è la seguente: sì, ma se noi, diciamo, licenziassimo, riducessimo gli occupati, vale per la Sicilia, per i forestali, vale per la Calabria, per la Campania, creeremmo nuovi disoccupati. Attenzione, questo è un argomento molto pernicioso, perché non è che noi possiamo creare lavori improduttivi, libereresti in uno Stato efficiente risorse, pagando meno, cioè, per agevolare altre attività, altrimenti a che cosa ci destiniamo? A una burocrazia bizantino-pletorica perché bisogna dare uno stipendio in alcune regioni? No, le paga meno risorse improduttive e utilizza questi soldi non per mangiarteli, ma per avviare e incentivare, magari attraverso per esempio una riduzione del carico fiscale, altre attività. Potresti utilizzare questi soldi per agevolare fiscalmente in maniera massiccia tutte le nuove attività, avvantaggeresti nuovi imprenditori. Perdi un posto di un impiegato inefficiente, guadagna un lavoro un imprenditore, un giovane, quello che è, un libero professionista efficiente e con idee. Questo si chiama, diciamo, merito. Tutto il resto è sussistenza. Partiamo dalla borsa, dicevo meno 0,16%, ma bene Enel più 2,30, ST Microelectronics più 2, Tenaris più 1,20, Intesa più 1, Eni più 0,90%, perde invece sia Jux il 3,80% e calo analogo anche Mediaset, Prismian meno 2,80, Pop Emilia Romagna meno 2,5 come Tods, il 2,3% lo perde la Pop Milano, ma anche Ferragamo. Il 2,1% è il calo di A2i di G-Tech, il 2% quello di Uniposai. L'alluvione di Modena, ci chiedete, ne parleremo, abbiamo cercato tutto il giorno il presidente dell'industria di Modena, i nostri GR comunque hanno raggiunto, e l'ho raggiunto Simone Spezia con effetto giorno, il presidente della provincia. Ci sono un migliaio di imprese ferme in questo momento nel modenese, anche qui vedo massimo silenzio, ma almeno vediamo se Zanonato ne ha parlato nel corso dell'audizione parlamentare, non mi risulta dalle agenzie, però insomma. Sì, era in question time Zanonato, però tutti concentrati sull'Italicum, sulla riforma elettorale, no? La Cina sta sperimentando da anni il capitalismo, ora lo sperimenta anche in alcune sue elementi, diciamo, meno edificanti. La passione dei miliardari per i paradisi fiscali offshore, perché? Perché anche lì Credit Suisse, mitica banca svizzera, e UBS sono specializzate, inutile girarci attorno, le banche svizzere sono specializzate nel dare consulenza su come portare fuori i capitali da un paese e basta, no? E poi infatti con la lista Falciani e con altre amenità devono andare a venire e correre ai ripari. Allora, non è che siano specializzate solo in questo le banche svizzere, però diciamo hanno una storia alle spalle anche su questo. Infatti Credit Suisse, UBS e PricewaterhouseCoopers hanno svolto un ruolo, secondo il giornale britannico Guardian, molto attivo nell'agevolare l'esportazione di capitali cinesi verso i paradisi fiscali dei Caraibi. Sarebbero oltre 21.000 i miliardari cinesi, a fronte di 3.700 americani, 2.100 russi presenti nei paradisi fiscali dei Caraibi. Quindi ormai i cinesi la fanno da padrone. Sono circa capitali che, in cui, tra l'altro, sempre nell'inchiesta del Guardian, sarebbero presenti tra questi e in questi paradisi fiscali anche l'ex premier Wen Jiabao, i figli, il cognato dell'attuale presidente Xi Jinping, Peng Zheng, che è l'ex sindaco di Pechino. La cosa interessante è che in Cina i 100 uomini più ricchi possiedono ricchezze per 300 miliardi di dollari, mentre ci sono ancora 350 milioni di persone che vivono con stipendi al di sotto dei $2 al giorno, principalmente nelle campagne. Raggiunto la Commissione europea sui target vincolanti di riduzione del 40% della CO2 e del 27% delle rinnovabili entro il 2030. Anche qui ottimo l'obiettivo, il taglio del 40% delle emissioni di gas serra. Faccio solo notare una cosa: l'Europa deve stare attenta però a non muoversi da sola, perché poi noi pesiamo nelle emissioni totali per una percentuale abbastanza risibile. Allora, o l'accordo poi è generale, o se no andiamo a penalizzare il nostro sistema produttivo, in particolar modo nei paesi che hanno maggior manifattura, Italia, Germania e Francia, e lasciamo liberi i concorrenti asiatici o americani di emettere quanta CO2 possono. Siamo tutti d'accordo che si debba ridurre le emissioni di CO2 e utilizzare le rinnovabili. Non si può fare da soli, sennò l'effetto sull'ambiente globale è nullo, ma l'effetto sulla competitività delle singole imprese europee è disastroso. Ancora, buona notizia arriva dal debito pubblico italiano, che per la prima volta dal terzo trimestre 2011, dalla fine 2011, è risultato in calo, ce lo ha detto la stessa Eurostat. Resta il secondo più alto in percentuale al PIL nell'intera Unione Europea, ma è calato al 132,9% contro il 133,3% del trimestre precedente sul PIL. Ripeto, prima riduzione del debito dal terzo trimestre 2011. In termini assoluti è sceso da 2.076 miliardi di euro a 2.068 miliardi di euro. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in seguito alle polemiche oggi su alcuni giornali su quanti soldi lo Stato ha dato agli imprenditori che ancora avevano debiti con la pubblica amministrazione, ha fatto notare che nel 2003 il governo ha immesso liquidità per 21,6 miliardi di euro, pagando alle imprese i debiti, l'arretrato che avevano, i crediti che vantavano nei confronti della pubblica amministrazione, pari all'1,6% del PIL. Nel complesso, ha detto, sono stati messi a disposizione 27 miliardi e per quest'anno ve ne saranno altri 25. 5 riguardano lo stanziamento del 2013, ancora gli altri 20 riguardano invece lo stanziamento tutto del 2014 per il cosiddetto sblocca debiti. E anche questa è una buona notizia. Una terza buona notizia riguarda invece il mondo del commercio. Allora, dopo un 2013 da dimenticare, meno 1,8% il PIL italiano e i consumi hanno fatto meno 2,4%, il Centro dello Studio di Confcommercio stima un PIL quest'anno molto più debole di quanto non si attende al governo, lo 0,3%. Però stima anche una prima una riduzione dei consumi molto più debole, meno 0,2, quindi non ripartono i consumi, ma smettono, diciamo, di calare. E infatti il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli ha detto: abbiamo toccato il fondo, ci sono segnali di fine di una caduta. E poi al microfono della nostra Alessandra Schepisi ha ricordato come sia comunque indispensabile proseguire il processo di riforme del paese. Il 2014 si chiuderà, secondo i dati del nostro centro studi, con un segno meno per quanto riguarda i consumi, 0,2, ed un segno positivo per quanto riguarda il PIL, più 0,4. Quindi bisogna assolutamente evitare di derubricare ad ordinaria amministrazione quelle che sono le vere e proprie emergenze del nostro Paese, che sono una pressione fiscale a livelli record, che sono l'aumento della disoccupazione, la costante crescita di balzelli locali, che sono consumi e redditi drammaticamente fermi. Allora è indispensabile accelerare il passo ed attuare tutte quelle riforme, anche a costo zero, che consentono al nostro paese di ritornare a crescere. E tra queste riforme certamente c'è quella del mercato del lavoro. Allora bisogna promuovere sempre di più l'apprendistato, che è la via maestra per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, rendendolo più semplice. Bisogna ridurre il costo del lavoro, favorire la flessibilità per consentire alle imprese, dai lavoratori, di cogliere tutte le opportunità di lavoro, di impiego che il mercato offre. E bisogna riformare i servizi pubblici al lavoro, riorganizzando la spesa pubblica senza costi per le imprese. Il Jobs Act, qual è la sua opinione? Ma guardi, io le do la risposta così: è certamente positivo che il governo metta al centro del proprio impegno il lavoro. Certo che se si parla soltanto di contratto unico e di ridurre la flessibilità, questo ci preoccupa e ci preoccupa non poco. Andiamo avanti con le notizie per quello che riguarda la giornata. C'è una quarta buona notizia, ammesso che appunto il termine del calo dei consumi, anche se non c'è una ripartita, c'è una buona notizia. C'è una quarta buona notizia, dicevo, che riguarda i protesti e i ritardi nei pagamenti, altro dato che ci dà il termometro della crisi. C'è una prima timida inversione di tendenza dall'inizio della crisi nei protesti e nei tempi di pagamento. Secondo i dati CERVED, che ha analizzato l'ANSA, le imprese protestate scendono del 6% rispetto allo stesso periodo, al terzo trimestre del 2012, sono 62.000. I pagamenti avvengono in media in 77 giorni, non più in 80-81 giorni come prima. Il dato che invece non è bello, ma sappiamo che il mercato immobiliare si muove molto più lentamente del resto dell'economia, riguarda il mattone, sempre più in crisi. Nella prima metà del 2013 l'edilizia residenziale ha presentato una rilevante flessione rispetto allo stesso periodo del 2012, dice l'Istat, meno 37,2% le nuove case, e praticamente è al minimo da quando esiste la serie storica. Il numero di case dei nuovi fabbricati scende sotto le 15.000 unità. L'Italia ha confermato i 1.900 esuberi, ma ha garantito ai sindacati che non ci saranno licenziamenti e le eccedenze saranno gestite con ammortizzatori sociali. Questo dopo l'incontro con il responsabile del personale della compagnia. Il confronto proseguirà poi il prossimo 24 gennaio, che è un venerdì, il pomeriggio. Allora, dicevo di Luisa Todini che oggi a 24 mattino su Radio 24 è intervenuta sul canone Rai. Perché? Perché il ministro Zanonato ha bloccato l'aumento del canone della RAI. Ora, non è bello, non è elegante che noi commentiamo un concorrente, però paghiamo anche il canone. Insomma, il canone si deve pagare per alcuni servizi, poi ognuno può pensare come vuole. Dico semplicemente che è un periodo difficile per tutti e quindi forse anche prima di fare aumenti valutare bene il conto economico, se non ci siano sprechi, se non si possa chiudere qualche sede in più, non so. Vabbè, intanto però Luigi Todini, membro del CDA RAI, ha detto che farà ricorso al TAR, stanno valutando un ricorso al TAR sul mancato aumento del canone. Ora lasciamo, dimentichiamoci che la RAI è di tutti i cittadini che pagano il canone, che è servizio pubblico e altro. La RAI è un SPA, una società per azioni di capitali in cui si investono capitali che devono essere remunerati. È doveroso quando in qualche modo non si segue la legge che lei ha nominato, la legge Gasparri, che può essere discutibile o meno, ma è la legge vigente che prevede un adeguamento del canone e questo non si fa. Ora il ministro potrà rispondere come vuole, con tutto il rispetto per il ministro Zanonato, ma per noi è doveroso valutare se ci sono gli estremi e la possibilità, che provo molto probabilmente ci sono, per fare il ricorso. Todini faceva riferimento alla legge Gasparri che prevede che scatti in automatico l'aumento del canone, visto che la RAI perde 21 milioni di euro e quest'anno sarebbe dovuto salire a 115 euro. In realtà Zanonato l'ha bloccato a 113,5 euro. Io non starei a impazzire per un euro e mezzo di canone in più all'anno, sarei a chiedere a una TV e un pubblica che vada in pareggio di bilancio e che faccia servizio pubblico, no? Zanonato, non è un bel periodo per lei. Io ricordo ancora quella cosa bellissima su Telecom Italia quando disse: ma no, non è mica vero che gli spagnoli hanno la maggioranza, non sono preso la maggioranza di Telco, eccolo lì, che però controlla Telecom Italia. E soprattutto dal ministro ci attendiamo anche un'informazione al Parlamento, un comunicato, qualcosa, una voce per i 2500 ettari di terreni allagati, 1000 sfollati, centinaia di capannoni allagati a Modena, che non bastava il terremoto, anche l'alluvione nelle stesse zone colpite dal terremoto 2 anni fa. Il presidente della provincia di Modena, Emilio Sabatini, ha fatto il punto con il nostro Simone Spezia durante Effetto Giorno. Siamo di fronte a milioni e milioni di metri cubi d'acqua che hanno invaso un territorio di un'area di circa lungo oltre 30 chilometri. Parliamo di un migliaio di sfollati nei centri di accoglienza allestiti dalla protezione civile. Poi ci sono le persone che hanno, attraverso la propria famiglia, creato una propria organizzazione, quindi non siamo in grado di certificarle. Naturalmente. Molte di queste si sono rifugiate in piani alti, ma oggi manca, da domenica manca l'energia elettrica e quindi si trovano in condizioni di difficoltà. Due comuni più colpiti hanno tuttora i centri invasi dall'acqua. Parliamo di 1800 imprese ferme, una viabilità provinciale e statale bloccata, quindi un'area isolata dall'area nord del nostro territorio, 2500 ettari di produzione agricola invase dall'acqua. Cioè è una situazione drammatica, ci sono 1000 persone tra la protezione civile, forze dell'ordine, militari che stanno intervenendo a sostegno, a tutela della popolazione, a controllare. Immagino Presidente che chiediate lo stato di emergenza e oltre a questo? Sì, beh, lo stato di emergenza la Regione sta già predisponendo gli atti, sì. Bisogna di quantificare i primi dati, ma dopo rimane il problema del ripristino, certo. Perché lo stato di emergenza non risolve a fronte a questo problema, ma sono le ore successive al dramma che si sta... E qui si apre il tema del ripristino, perché i danni saranno, io credo, di qualche centinaia di milioni d'euro. Save me. lupo a tutti gli abitanti del Modenese, imprenditori ma non solo, e una parola oltre che sull'Electrolux, su cui il ministro continua a dire ma non, nessuno mi ha convocato. Ministro Zanonato, lei è il ministro, lei che convoca i tavoli, su, se non la convocano vada lei e vada anche a Modena a visitare, una volta si faceva almeno così, quantomeno per la photo opportunity, e vada a farsi fare la foto in mezzo ai campi che sembrano risaie. Ma che stiamo scherzando? Vabbè, nel giorno in cui c'è il mandato d'arresto per Fabio Riva, e vai, già coinvolto nell'inchiesta della procura di Taranto sull'IVA, tanto lui sta in Inghilterra, è figlio di Emilio, patrono dell'IVA di Taranto, viene contestata, da quanto si è saputo, truffa e danni allo Stato per centinaia di milioni di euro, erogazione di contributi all'esportazione che sarebbe stata realizzata attraverso la holding Riva Fire. E poi mandato d'arresto, perché lui appunto è latitante a Londra, altre due persone arrestate, il dirigente della Riva Fire e un professionista, indagata anche la società Riva Fire. E viene anche contestata l'associazione delinquere, complimenti comunque, da quello che sta emergendo, i soldi li abbiamo usati in tutti i modi, cari Riva, tranne che per mettere in sicurezza l'Ilva, e poi i cocci sono nostri, come abbiamo raccontato per un anno. Bene, bene. Buona notizia, arriva dal Movimento 5 Stelle, perché hanno i parlamentari del 5 Stelle hanno restituito finora 4 milioni di euro come parte di diarie dei deputati, dei senatori, ma anche gli stipendi. Pensate, 4 milioni di euro, magari, faccio per dire, nel modenese sarebbero utili in questo momento. La cifra è stata versata sul fondo di garanzia statale per le piccole e medie imprese, che sarà d'ora in poi la destinazione definitiva per tutte le restituzioni mensili dei 5 Stelle. Beh, voglio dire, non è brutta come iniziativa, al di là del giudizio politico, abbiamo spesso criticato i 5 Stelle, però che quello a cui tu rinunci come diaria e come stipendio vada in un fondo per le piccole e medie imprese è un bel gesto da parte della politica. Immaginiamo la corsa a imitarli da parte degli altri partiti. Tutti pronti? Certo, poi uno si sposta in Basilicata, adesso non si offendano gli abitanti della Basilicata, i basilischi, però dico, cioè, già è una regione, cioè, che esiste per motivi così di carattere anche politico, non è che proprio la Basilicata e il Molise, anche se fossero inglobate in un piano di razionalizzazione regionale, no, si scatenerebbe la guerra. Detto ciò, non basta che già ci sia una regione così. I 20 eletti nel Consiglio regionale, ci sono 20 eletti nel Consiglio regionale, però ci sono 11 gruppi consiliari, 8 di questi sono formati da un unico individuo e praticamente è un capogruppo ogni due eletti, e il capogruppo che è il capogruppo di se stesso, cioè poi c'è il capogruppo che litiga con se stesso, io sono il capo del mio gruppo ma il mio gruppo non mi segue, sono sdoppiamenti delle personalità pazzeschi, dissonanze cognitive da psicologo. Però il capogruppo ha un'indennità aggiuntiva di 900 euro. Praticamente, se il Parlamento italiano avesse la stessa frammentazione, ci dovrebbero essere, visto che sono 630 deputati solo alla Camera, ci dovrebbero essere 346 gruppi parlamentari. Vabbè, però nel regolamento della Regione Basilicata è scritto in maniera molto chiara: ogni lista può, capace di avere almeno un seggio, può costituire un monogruppo. Andiamo col metro, la pubblicità, poi ci possiamo occupare del comune di Napoli, visto che eravamo in tema. Guardo in regia perché gli sto un po' smontando la scaletta, ma sì, dai, meteo, pubblicità, 349-238-6666 e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Questa decisione è una doccia fredda perché rischia, se non viene rivista, di interrompere questo processo virtuoso, faticoso, perché i cittadini ne stanno pagando le conseguenze, perché le tasse sono molto alte, la legge impone dei tagli significativi, però voglio dire con particolare orgoglio che il Comune di Napoli, nonostante sta in predissesso, in questi due anni non ha licenziato un lavoratore e non ha messo sul mercato i servizi pubblici. Questo appunto dal punto di vista dell'opera che avete fatto, però come si diceva la bocciatura della Corte dei Conti è su un piano di prospettiva che evidentemente la Corte dei Conti dei Magistris ha giudicato non credibile, nel senso pur prendendo per buono, no, quello che ci dice lei dal punto di vista del lavoro che avete fatto dal momento nel quale si è insediato, e però qua c'è un piano di prospettiva che secondo la Corte dei Conti non regge. A parte dobbiamo vedere le motivazioni, perché poi bisogna avere da un lato rispetto, dall'altro la possibilità di criticare, perché poi una sezione generale della Corte dei Conti di controllo non è il Vangelo. Il tema è questo che mi lascia perplesso: la Corte dei Conti deve avere soprattutto una funzione in questo piano di riequilibrio di accompagnamento del piano, cioè è impensabile che in un anno con quel debito, con quella situazione, col conflitto sociale di Napoli, con una situazione devastante nel paese, non è che Napoli può diventare Ginevra o Lugano. Quindi noi abbiamo bisogno di essere accompagnati, di essere corretti laddove ci sono delle cose che possono essere corrette, ma i progressi sono innegabili, cioè noi abbiamo i dati e anzi siamo favorevoli, faremo pubblicare su internet, perché è bene che si comprenda la partita che si sta giocando a Napoli e anche probabilmente di rivedere alcune leggi che affidano probabilmente processi democratici così complessi a degli organismi che non so se fino in fondo riescono a leggere quello che sta accadendo in città e nel paese. Che la sezione generale di controllo della Corte dei Conti fa una valutazione esclusivamente certe volte di dati che sono numerici, che sono ragionieristici. Noi invece amministratori dobbiamo trovare una quadra tra un risanamento doveroso, però senza farci esplodere una città, perché se la città esplode alla fine altro che Corte dei Conti. Così parlò non Zarathustra, ma il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, oggi ospite del nostro Simone Spezia a Effetto Giorno. Non so da dove iniziare, perché l'avete ascoltato con attenzione, spero, perché c'è dentro tutto in questa intervista di De Magistris, che tra l'altro, essendo un magistrato, un ex magistrato, dovrebbe avere anche forse ben incamerato, introiettato il senso delle istituzioni. Allora, andiamo con ordine, vediamo se ce la facciamo. De Magistris si vanta di non avere mai licenziato un lavoratore da quando c'è lui. Ma c'è da vantarsi con 10.000 dipendenti del comune e 8.430 dipendenti delle 14 municipalizzate controllate dal comune, che costano complessivamente in tutto 900 milioni di euro di stipendi? Chiedo, siamo sicuri che la prima medaglia sia dire io non ho toccato un dipendente del comune? Comune che riscuote il 3% delle multe emesse, il 3% delle multe emesse. E magari qualche inefficiente, qualche fannullone ce l'hai anche tu, e licenziano, no? Mandalo a casa, chiudi una municipalizzata, trovi i soldi in un altro modo. No, ma De Magistris non si ferma qui, perché continua. Beh, la Corte dei Conti non è il Vangelo. Alla faccia, cioè l'organismo di magistratura contabile di questo paese, nella sua sezione campana, viene definito da un ex magistrato che faceva la battaglia sulla magistratura come se giustamente andasse rispettata sempre e comunque. Attenzione, non è il Vangelo. Allora non lo può dire anche delle sue sentenze, De Magistris. Ma di che cosa stiamo parlando? E poi spiega anche alla Corte dei Conti cosa dovrebbe fare nella vita. Sbaglia la Corte dei Conti a dare solo i conti, e che come cavolo dovevamo chiamare la Corte dei Conti? Fa dai conti? Perché un sindaco non può basarsi solo sui dati numerici, ma anche sulle tensioni sociali. Ho capito, nessuno sta dicendo di chiudere il Comune di Napoli, ma di renderlo più efficiente sì, se ne può parlare De Magistris o no? O ne parliamo con suo fratello? Con chi dobbiamo parlarne? De Magistris, cosa vuol dire che la Corte dei Conti deve fare l'accompagnamento del piano del sindaco? Ma che è, un consulente esterno? La Corte dei Conti, per sua definizione, guarda i conti e dice cosa che ha detto oggi. Attenzione, gli ha bocciato il piano di risanamento del Comune di Napoli, che prevede di portare i conti in equilibrio tra 10 anni, e ha bocciato ieri la Corte dei Conti calabrese un piano analogo di Reggio Calabria, perché dice, cara giunta De Magistris, gli introiti che tu ti aspetti, 800 milioni di euro, come adesso ci spiega Gianni Trovati, dalla vendita di immobili, sono dubbi. Ma può dirlo la Corte dei Conti? O cosa deve fare? Deve fare una valutazione politica? La Corte dei Conti politici, ma siamo impazziti, non so questo. Già ritrovati, ti chiedo un minuto di pazienza ancora perché ho le informazioni sul traffico. Allora, già ritrovati. Che buonasera. Cosa? No, io lo so, io vi giuro. Si chiama De Magistris, nomen omen, faceva il magistrato e dice che la Corte dei Conti è un po' troppo sui conti. Io veramente pensavo di averle esite tutte. Comunque, che cosa contesta la Corte dei Conti Campana e il Comune di Napoli? Allora, la Corte dei Conti Campana e il Comune di Napoli contesta, poi vedremo le motivazioni nei prossimi giorni, la sostenibilità del piano di rientro. Allora, facciamo un passo indietro. Tutto nasce dal fatto che il Comune di Napoli, come altri comuni soprattutto, ma non solo al centro-sud, era in condizione di quasi dissesto. Una pulitura dei bilanci aveva fatto emergere nel 2011 un deficit di 850 milioni di euro, che per un comune solo è abbastanza tanto, insomma, vicino al miliardo di euro. Allora lì le alternative erano due, sostanzialmente, anche perché c'era un problema, parlo di problemi anche precedenti alla Giunta De Magistris, che si sono incistati, bla bla bla, insomma si era arrivati a una situazione di sostanziale impossibilità del comune di onorare i propri debiti, perché il comune pagava, c'è scritto in una relazione dei revisori dei conti, arrivava a pagare a 4 anni e mezzo di media i propri fornitori, quindi insomma bisogna essere giovani per essere fornitori del Comune di Napoli. Giovani, media, 7, 8, 9 anni. Giovani in buona salute. Detto questo, nell'autunno del 2012 il governo Monti fa un decreto salva enti. Perché? Perché erano tanti gli enti locali in questa situazione, si rischiava una serie di fallimenti a catena proprio nelle stesse settimane in cui in Spagna fallivano le regioni. Allora c'era lo spread ancora molto alto, la situazione di finanza pubblica in grande tensione giorno per giorno. Per evitare questa cosa si fa il salvaenti. Cosa dice il salvaenti? Dice: io Stato do a te comune un po' di soldi per iniziare, diciamo, per sopravvivere e per iniziare un piano di rientro che alza al massimo le tasse, taglia le spese, taglia i rami secchi e riporta in X anni i conti in equilibrio. Il piano viene esaminato dalla Corte dei Conti, che lo può confermare o bocciare. Naturalmente la Corte dei Conti esamina i numeri in maniera un po' ragionieristica, come è stato detto. Si chiama Corte dei Conti, ma perché è esattamente il suo compito. Lì qual è il problema, secondo me? Che il piano di rientro è stato varato dalla Giunta e poi dal Consiglio molti mesi fa. I soldi, 160 milioni di euro, sono già arrivati al Comune di Napoli di anticipazione dallo Stato in un fondo rotativo. Rotativo vuol dire che ruota, cioè io ti do 160 milioni, ma tu poi dall'anno dopo cominci a restituirmeli. E questa rotazione per ora è un po' bloccata, nel senso che non sono stati restituiti. Non solo, nello sblocca debiti, quello che sblocca i debiti della PA, il Comune di Napoli ha ottenuto molte altre anticipazioni di liquidità dallo Stato, dei prestiti, dallo Stato e dalla Cassa Depositi e Prestiti, che comunque è lo Stato, adesso semplifichiamo molto, che arrivano a circa 1 miliardo di euro. Quindi noi abbiamo molti soldi anticipati al Comune di Napoli, che si aggiungono quindi a tutte le obbligazioni che il Comune di Napoli deve avere. Insomma, la situazione è difficilmente sostenibile, ci vuole un mezzo miracolo per riequilibrare. La Corte dei Conti dice che nei numeri questo mezzo miracolo non c'è. Un esempio abbiamo fatto noi, ripeto, vedremo le motivazioni della Corte dei Conti. Il piano di riequilibrio dice di introitare negli anni 800 milioni di euro da dismissione del patrimonio immobiliare. Sono decenni che i vari sindaci di Napoli hanno provato la strada delle dismissioni con risultati scarsissimi, a volte nulli. Quindi nessuno ce l'ha con De Magistris. La Corte dei Conti, pagata, magistrati pagati per questo, obietta che gli incassi già promessi negli ultimi 10 anni dalla vendita di immobili comune sono dubbi, perché questo piano si basa su 800 milioni di euro di vendite, e la reazione del sindaco è questa. E vabbè, ve l'abbiamo fatta ascoltare questa frase, questa intervista e i commenti già ne trovati, non perché speriamo di risolvere i problemi del Comune di Napoli, ma per farvi capire cosa significa poi avere a che fare con certi amministratori che contestano perfino il fatto che la Corte dei Conti si occupi un po' troppo di conti. Adesso la borsa, anticipo io gli indici, poi un commento su alcuni titoli dopo il GR, meno 0,20% Milano, invariata Parigi, meno 0,10% Francoforte, meno 0,12% Londra, Mediaset perde il 4% come Jux, Prismian il 2,80%, Pop Emilia Romagna 2,60% come Ferragamo e Tod's, ma anche A2A il 2,40% lo perde la Pop Milano. Enel più 2,36%, ST Microelectronics più 2%, Tenaris più 1,30%, Intesa San Paolo più 1,20%. Ci sentiamo dopo il GR. Minuti, riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Allora, dicevamo dei titoli di borsa, poi passiamo alla cassa integrazione, li ho già elencati per esteso nelle variazioni migliori e peggiori oggi del FTSE MIB. Ciao Condina. Piatti, Radio Colli sulle 24 ore, buonasera innanzitutto. Ciao, buonasera a tutti. Piatti bancari, andrei su due titoli, da un lato Mediaset ma anche A2A, il lusso oggi di nuovo debole, ma insomma è un periodo che lo vediamo altalenante, e dall'altro invece Enel ed ST Microelectronics. Allora, per Mediaset c'è stata un'accelerazione a ribasso proprio alla fine della seduta, non ci sono motivi particolari, forse il fatto che il titolo ha guadagnato molto nelle ultime settimane su quelle che potrebbero essere le prospettive di un'integrazione tra Italia e Spagna delle pay TV. Per quanto riguarda A2A invece una perdita del 2,5%, il titolo resta debole, ci sono forti indecisioni infatti da parte del mercato su quello che dovrà essere nei prossimi mesi il processo di dismissione di una quota del 5% da parte dei Comuni di Milano e di Brescia, che come noto sono gli azionisti di maggioranza del gruppo. Per quanto riguarda invece diciamo i titoli più brillanti del listino a cui accennavi tu, Enel fa più 2-3%, è la migliore, risale ai massimi da fine 2011, c'è un diciamo forte apprezzamento da parte del mercato per la politica di riduzione del debito, con gli esperti del settore che poi puntano anche su un incremento del dividendo nei prossimi due anni. Infine ST, cresce l'attesa per i conti del gruppo italo-francese che verranno diffusi lunedì, e c'è anche ottimismo visto che le trimestrali dell'americana Texas Instruments e di AMD hanno mostrato dei conti oltre le attese. A Texas e AMD sono, insomma, fanno parte dello stesso settore di ST, come noto. E quindi semiconduttori, migliori e peggiori, basta oggi più 14,91, Banca Popolare dell'Etruria più 11,55, Italcementi più 5,70, Ambro Immobiliare più 4,16%, fronte opposto invece Biancamano meno 7,20%, Cucinelli sempre nel lusso meno 5,70%, Piquadro sempre lusso meno 4,60%. Devo dire che il lusso sta ritracciando, ma molto molto, era cresciuto l'anno scorso, e TAS meno 4,60%. Ora, la giornata di borsa oggi è piatta, con le borse tutte o pari o poco sotto la parità, quindi mi sembra che possiamo anche salutarci così, ceo. Intanto ci risentiamo domani con te e con i colleghi di Radio Cori, il Sole 24 Ore. Parliamo di lavoro, sia perché affronteremo il caso dell'Electrolux in Friuli, in provincia di Pordenone, a Porcia. La proposta ce l'ha raccontata lo stesso presidente degli industriali, una proposta che prevede, a fronte di un calo del 7% reale in busta paga, un insieme di ammortizzatori sociali, quindi agevolazioni di welfare, buoni pasto, buoni scuola, buoni asilo e quant'altro. Ma ne parleremo perché sia il presidente della Regione Veneto Zaia che della Regione Friuli Venezia Giulia Serracchiani hanno chiesto le dimissioni del ministro Zanonato. Però prima restiamo in tema di lavoro e saluto e ringrazio il collega del Sole 24 Ore, Giorgio Pogliotti. Buonasera Giorgio. E buonasera a voi. Che oggi ha scoperto, si va per dire, che ci sono ben 11 regioni italiane rimaste senza fondi per la cassa integrazione in deroga, tra cui anche il Veneto, il Friuli, oltre che la Liguria, Marche, Molise. Sardegna, Toscana, Abruzzo, Basilicata e Emilia Romagna. Quanto manca all'appello e chi e dove manca di più, diciamo? Dunque, mancano all'appello 1 miliardo e 70 milioni per chiudere il 2013. Cioè, ciò significa che ci sono nelle regioni che tu hai elencato persone, decine di migliaia di persone in cassa integrazione in deroga o in mobilità in deroga, che attendono di avere il pagamento nelle peggiori ipotesi da giugno, nelle migliori ipotesi della mensilità di ottobre-novembre. Quindi insomma persone che sono in situazione di oggettiva difficoltà, che attendono a causa dell'esaurimento dei fondi, perché ricordiamo che gli ammortizzatori in deroga sono sostenuti dalla fiscalità generale, ebbene attendono da giugno, luglio, attendono di essere pagati. Ecco Giorgio, oggi però il ministro del lavoro Enrico Giovannini e quello dell'economia Saccomanni hanno firmato il decreto per la concessione di ulteriori 400 milioni di euro per la proroga o per concedere la cassa integrazione in deroga. Ricordo che la cassa integrazione in deroga è diversa da quella normale, perché si applica sostanzialmente, è una legge del fu introdotta con la finanziaria del 2004, si applica alle imprese che non hanno accesso alla cassa integrazione normale perché hanno meno di 15 dipendenti o hanno già esaurito la cassa ordinaria. E tra l'altro la Commissione Lavoro del Senato sta lavorando a una modifica, perché vorrebbe portare già da quest'anno a non andare oltre gli 8 mesi di cassa integrazione in deroga. Dicevo, i soldi oggi stanziati da Giovannini e Saccomanni non bastano, però sono 400 milioni. Dunque, esatto, perché le regioni hanno stimato che mancano all'appello, solo per chiudere il 2013, mancano 1 miliardo e 70 milioni. Cosa succede? Oggi sono stati distribuiti, sono stati assegnati 400 milioni, però appunto sono la prima tranche delle risorse che il governo aveva messo per il 2014. Quindi erano risorse che la coperta diciamo è abbastanza stretta, perché sostanzialmente se si pensa che nel 2013 avevano stanziato 2 miliardi e mezzo e i fondi sembrano essere terminati, appunto per il 2014 il governo ne ha stanziati molti di meno, un miliardo e 7. Ebbene, oggi ha ripartito i primi 400 milioni, che però appunto per queste 11 regioni serviranno in realtà per coprire ancora il 2013. Quindi ciò significa sostanzialmente che insomma sarà probabilmente un problema anche, visto che appunto per lo scorso anno erano insufficienti queste risorse. Sarà un problema che trasceneremo anche nel 2014. In tutto ciò si inserisce, come tu giustamente ricordavi, il decreto interministeriale che si sta esaminando in Commissione Lavoro al Senato, con cui il governo in qualche maniera riduce la platea dei beneficiari di ammortizzatori in deroga e riduce anche la durata. In questa maniera sostanzialmente si dovrebbe giustificare il fatto che vengono assegnate poi meno risorse per il 2014. Allora, faccio notare per quello che riguarda le regioni che gli ammanchi più consistenti riguardano la Lombardia, 220 milioni, perché riesce però a erogare le prestazioni avendo recuperato i fondi da altre fonti. La Calabria mancano 180 milioni, la Puglia 120, la Toscana 70, la Liguria 50 milioni. E in realtà con questi soldi stanziati oggi andranno 70 milioni in Lombardia, 33 in Puglia, 34 nel Lazio e 30 sia Piemonte che Emilia Romagna. Faccio anche presente che secondo i dati della CGIL i lavoratori che nel 2013 sono stati messi in cassa integrazione a zero ore sono stati oltre 515.000, in ragione di 1.075.000 ore di cassa integrazione richieste e autorizzate, che è il terzo peggior dato degli ultimi 4 anni. Praticamente sono sostanzialmente tra le regioni al primo posto della cassa integrazione autorizzata c'è la Lombardia con 251 milioni di ore, che corrispondono a 120.000 lavoratori. Grazie intanto a Giorgio Pogliotti. Adesso c'è il traffico e poi parliamo della richiesta di dimissione del ministro Zanonato. Onestamente la polemica con la Serracchiani non l'ho capita, perché cosa dico? alle regioni, in particolare al Veneto, smettila di polemizzare, dai qualche suggerimento, perché il problema è che il settore dell'elettrodomestico è in crisi, non è dovuto a una cattiva politica industriale italiana, è dovuto al fatto che i prodotti che vengono da alcuni paesi sono di buona qualità e molto meno costosi dei nostri, e quindi c'è un problema di rendere competitivi i nostri prodotti. Non posso mica imporre ai mercati esteri di comprare i nostri anche se sono più cari, no? E quindi dico, smettila di polemizzare, tanto più che il problema non ce l'hai neppure tu, ce l'ha il Friuli con la sede di Porcia, che è quella che rischia di subire l'attacco più forte, e su quella che mi sto concentrando. Serracchiani ha capito che sacrifico Porcia, mi pare un po' di confusione. Se uno mi attacca dicendo che sono biondo, rispondo che non sono biondo. Dobbiamo stare sul punto. Il punto è che io mi sto impegnando su Porcia. Nel corso di questi mesi ho incontrato l'ambasciatore svedese, ho incontrato la direzione italiana, ho ragionato su come è possibile affrontare, perché è un'azienda che esporta. Noi siamo il terzo esportatore mondiale nel campo degli elettrodomestici, è uno degli asset industriali più importanti del nostro paese. Automobili, anche lì abbiamo difficoltà, e poi vengono gli elettrodomestici. Quindi mi interessa enormemente trovare un sistema per ridurre il costo del lavoro. Tenete presente che tra la Polonia e l'Italia, l'Italia ha un costo orario di 26 euro, la Polonia di 6, è difficile reggere il confronto. Così il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato al microfono del nostro Vincenzo Miglietta dopo il Question Time, dice: la polemica con la Serracchiani non l'ho capita, il mio interesse è tutto sullo stabilimento di Porcia dell'Electrolux, sono 1200 addetti diretti e altri 2000 nell'indotto, l'accordo ce l'ha raccontato lo stesso presidente degli industriali di Pordenone a fine settimana scorsa, due giorni fa, scusatemi con la memoria anch'io ogni tanto traballo, e prevede, a fronte di una riduzione del salario del 7%, in realtà è 20%, però sarebbe il 7% reale, un insieme di e maggiore flessibilità nell'inquadramento, a parziale compensazione prevede anche integrazioni aziendali sul fronte del welfare, aiuti per sanità integrativa, buoni scuola, buoni spesa, ticket, restaurant, trasporto, asili nido e assistenza agli anziani. Poi prevede anche l'orario più flessibile, quindi spostare la domenica alle festività dei Santi. Ma insomma, Deborah Serracchiani, presidente del Friuli Venezia Giulia, buonasera. Buonasera. Allora, ce la spieghi lei la polemica con Zanonato, visto che lui non l'ha capita? Noi abbiamo visto le dichiarazioni molto dure, lei dice dovrebbe dimettersi perché si sta, io ho capito così, si sta occupando più del Veneto che del Friuli? No. Ma guardi, io ovviamente non è che prendo decisioni di questo tipo semplicemente leggendo i giornali, ma anche traendo le conclusioni determinate da un lungo periodo che è dietro l'inizio di investigazione fatto dall'Electrolux sui quattro stabilimenti italiani. Io ho firmato con tutti gli altri presidenti interessati, e sono Maroni, Zaia ed Errani, tutti e quattro noi interessati dalla presenza di uno stabilimento sul nostro territorio. Abbiamo firmato una lettera dove abbiamo chiesto con urgenza, ed era già ancora ottobre, un incontro. Lo abbiamo fatto altre volte, io stesso ho sollecitato un incontro con il ministro che almeno spiegasse anche quello che sta facendo, lui si era impegnato a venire presso lo stabilimento di Porcia, un impegno che aveva preso non con me, direttamente con i lavoratori. Bene, io ad oggi non ho ricevuto, diciamo così, nessun tipo di riscontro sull'attività svolta, e neppure un invito ad essere presente ad un tavolo dove ci possa serenamente parlare di quello che sta accadendo. Dopodiché apprendo dai giornali che il problema è quello di Porcia, come a dire, non preoccuparti Veneto, tanto il problema ce l'ha il Friuli Venezia Giulia. Allora, io onestamente credo, e veramente guardi, non ho nessun interesse a far polemiche, non me ne frega niente, da presidente della regione lo trovo inaccettabile. E quindi ho ritenuto di fare il passo che ho fatto, convinta che questo sia un tema addirittura di portata nazionale. Sono tantissimi i tavoli di crisi aperti, ne siamo tutti consapevoli, ma questo è un tema nazionale che coinvolge una grande multinazionale, che deve coinvolgere la Presidenza del Consiglio e che deve trovare il Ministero dello Sviluppo Economico pronto non solo e non tanto nelle proposte, ma anche nel coinvolgimento di tutte le istituzioni e del territorio. C'è stato un piano territoriale fatto da un'industria Pordenone. Bene, che ne pensa il Ministero? Ci sono delle proposte che la Regione vuole fare, che presenterà venerdì tra l'altro, proprio per aggiungerle ad altre che sono state fatte, che riguardano in particolare le competenze regionali. Bene, vogliamo parlarne ad un tavolo seriamente o dobbiamo aspettare che venga fatto il piano industriale all'esito del quale magari viene fuori che di 4 stabilimenti chiudono quello di Porcia? Quindi, se ho ben capito, Presidente Serracchiani, lei dice... Quello che non ci è piaciuto, per essere eufemistici, è che, e lo dice anche il suo collega Presidente del Veneto Luca Zaia, oggi ha detto Zaia sulle dimissioni di Zenonato, sono d'accordo con la Serracchiani, noi quattro governatori aspettiamo dal 12 ottobre una convocazione del Ministro, quindi non è tanto la proposta, la posizione del Ministero, è la non posizione, la non convocazione del Ministero, del Ministro? Ma certo, ma vede, io non... Allora, il Ministro mi risponde correttamente, non c'è un tavolo di crisi aperto perché quel tavolo deve chiedermelo il sindacato e il sindacato non me l'ha ancora chiesto. Benissimo, ma te l'hanno chiesto i presidenti delle regioni, intanto di fare un tavolo con loro. Perché non coinvolgerci? In fondo noi regioni abbiamo diverse competenze, penso alle competenze sugli ammortizzatori sociali, penso al tema delle politiche attive del lavoro, penso anche alla proposta di compensare il taglio del costo del lavoro sul welfare. Chi pensa che mette i soldi sulla compensazione welfare? Sono le regioni. Senta, Serracchiani, però, quindi ho capito, il tema è che non vi ha convocato, ci sono 159 tavoli di crisi aperti dal Ministero dello Sviluppo Economico negli ultimi anni, una buona notizia gliela voglio dare perché poco fa l'hanno battuta le agenzie, non riguarda la sua regione, però riguarda il paese e la Whirlpool chiude uno stabilimento in Svezia, a Norrköping, lo trasferisce nel Varesotto, a Cassinetta di Biandron, visto che sarà una produzione di forni e microonde in casso, destinati al mercato europeo, e potrebbe portare a nuove assunzioni nel Varesotto, dove si trova il principale centro produttivo della Whirlpool. È comunque una buona notizia. Detto ciò, secondo lei perché Zanonato non vi ha convocato? Perché detta così è inspiegabile. Anch'io mi sono chiesto all'inizio del programma, è vero che devono essere i sindacati a chiedere il tavolo, però un ministro ha tutta l'autonomia per convocare le parti, comprese le parti politiche, quando, come, dove vuole. Esatto. Cioè, perché non vi ha convocato? Perché è stato superficiale, perché non gliene frega nulla della vicenda del Friuli, perché? No, io guardi, io non credo che non gliene freghi niente, però io devo, come dire, liberare il campo da ogni questione territoriale, perché purtroppo, anche col Veneto, ci sono diverse questioni territoriali che ci dividono. Le faccio l'esempio delle IDA standard. Diversi stabilimenti in Italia si decide di chiudere come piano industriale solo quello che sta ad Orcenico, cioè in Friuli Venezia Giulia. Il Veneto in questo senso, diciamo così, non è che è partecipe delle sofferenze del Venezia Giulia, insomma, sta, lo trovo anche, come dire, legittimo, salvaguardando gli interessi del proprio ristabilimento. Allora io non voglio trovarmi nelle stesse condizioni con Electrolux, cioè io non voglio avere un piano industriale che verrà presentato il 27, che magari dirà, perché non ci vuole una laurea in economia, che dei quattro stabilimenti quello più in difficoltà per la tipologia di prodotto è quello di Porcia e che pertanto nel piano industriale magari si decida di chiudere proprio quello. Cioè non voglio neanche sentirmelo dire dal ministro, voglio che ci sia una convocazione ufficiale chiesta da tempo, come lei ricordava, che a quel tavolo si faccia una discussione serena, pacata, su tutto il settore dell'elettrodomestico, perché non è un problema soltanto delle quattro regioni che ho citato, che si prenda una decisione anche rispetto all'Europa, visto che si sta pensando di delocalizzare la produzione di Electrolux in Polonia, mica fuori dell'Unione Europea, e che si faccia un ragionamento rispetto a un tema come quello del taglio del costo del lavoro che deve coinvolgere evidentemente anche il campo nazionale, non solo regionale. Però io penso che da questa crisi si esca tutti insieme, ecco perché pretendo che tutti insieme si facciano le cose. Mi tolgo un dubbio, scrivono alcuni ascoltatori, va bene, abbiamo capito il punto, però c'era bisogno di, dicono insomma, sputtanare, un termine poco elegante, oltre che un ministro, un membro del suo partito, così erga omnes, non era più facile fare una telefonata al ministro, e il sospetto che hanno altri, le chiudo la domanda Serracchiani, è che in realtà ci sia sotto anche uno scontro politico. Lei è renziana, nella segreteria di Renzi, Zanonato è espressione di un PD che non è quello a segreteria Renzi. No. Guardi, fuori da ogni logica del Partito Democratico, delle beghe nazionali, delle questioni legate alle correnti del PD, non mi interessa, non me ne frega niente, io ho parlato e ho agito esclusivamente da presidente della regione Friuli Venezia Giulia per proteggere un territorio dove al quale viene detto rischia solo il tuo stabilimento. Allora, se permette, alla luce del fatto che io di telefonate ne ho fatte, di lettere ne ho scritte, di incontri ne ho chiesti, ho ritenuto opportuno di, possiamo dirlo, non rimanere col cerino in mano. Non vedo perché deve farlo la Regione Friuli Venezia Giulia. Non vedo perché non si debba prendere una responsabilità chiara e netta chi in questo momento sta gestendo il sistema dello sviluppo economico italiano, e io sono pronta a dargli una mano, e io dopo ci siamo sentiti, sono convinta che arriveremo anche a chiarirci, ma il tema è un altro. Ma possibile che dobbiamo ancora continuare tutti a lavorare a compartimenti stagni senza che nessuno si parli di fronte a una crisi di sistema che impone che tutti si trovino a quel beneficio? Quindi dopo Zeronato l'ha chiamata o lei ha chiamato lui, questo non mi interessa, sì, chi ha pagato, diciamo. Ci siamo sentiti. E cosa ha detto? Si può sapere? Insomma, io le ho detto esattamente queste cose, lui ha detto esattamente le cose che ho sentito e ho ascoltato alla radio, e ovviamente però... diciamo così, non siamo concordi sul fatto che occorra attendere questo 27 gennaio prima di far qualcosa. Io ma Serracchiani, ma lei ha ancora dell'idea che debba dimettersi Zeronato, o era così una provocazione? No, non, guardi, io non sono abituata alle provocazioni. Quindi, sono sì. abituata ai gesti di responsabilità. Io credo che il ministro possa rispondere coi fatti, dimostrando che sta lavorando, cosa che ha detto di fare anche prima. Ma se si deve dimettere, però non può lavorare, cioè se dovesse fare quello che le dice. Ma senta, se deve risolvere una questione che si tratta di un tavolo di crisi, a me delle dimissioni non mi interessa l'etichetta dimissione, a me interessa che ci si prenda. Finalmente si prendano delle decisioni importanti sul tema della crescita e dello sviluppo economico, che non può essere soltanto mettersi a un tavolo a fare i notai sugli ammortizzatori sociali e le casse integrazioni. Questo no. Grazie alla Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani. Grazie. Missioni, provocazioni, se ho ben capito. Vuole che il ministro lavori, questo l'abbiamo capito tutti. Domani cercheremo di capire qualcos'altro della prossima giornata economico-finanziaria. Per ora da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.